militante, questo suo esserci sempre per tutti. Però questo era proprio un suo segno distintivo, e poi la sua enorme curiosità che, come dire, ha fatto sì che la Calusca fosse una libreria non come tante altre, fosse un punto di riferimento intellettuale, politico, assolutamente aperto, non settario. Io l'ultimo ricordo, che non l'ultimo ricordo quello primo, ma uno dei più nitidi, 89, dopo la strage di Tiananmen, manifestazione anticinese, primo aveva una fascia nera al braccio. È stato uno dei primi a reagire in quel modo senza pensarci su tanto, proprio con un istinto del capire dove ci si può e ci si deve schierare. E questa non è una vicenda così comune alla nostra storia di compagni, uso questa parola. A volte ci sono mediazioni che ci portano a pensarci su e un po' troppo. Timidezze e cose che hanno anche a che vedere con qualcosa di peggio, con la mancanza di coraggio. Ecco, primo in questo senso era proprio immediato e io proprio non ricordo. Sarà appunto una chiacchierata che farei cominciare a Maid e poi un po' a ruota libera vi passerete la palla. Grazie, perché c'è un fatto che mi rende particolarmente emozionata. Perché io sono cresciuta qui in Acesa Grasetto, al numero 4, io, mio padre e mia madre Sabina Piccoli, che ha fondato la libreria Calusca insieme a mio padre, non si ricorda mai abbastanza spesso. Abitavamo qua in Acesa Grasetto al 4, quindi scendere qua, arrivare da Roma in treno, scendere qua, saltare così, prendere invece da Sesto. Mi ha molto emozionato, mi sono molto contenta che ci sia una libreria qui di questo tipo oggi, perché questo era un quartiere, mi permettete un piccolo inciso, molto diverso da come è oggi. Era un quartiere tendenzialmente popolare, sotto casa mia invece dal 34 c'era un mitico bar sport dove succedevano cose terrificanti. Io ho assistito da bambina anche a spartorie o a risse, era un quartiere anche di malavita, era un quartiere però anche di artigiani, di botteghe, di piccoli negozi. La trasformazione di questo quartiere io l'ho vissuta in maniera molto drammatica, senza nulla togliere a chi vive qui, anche a viverci qui a come è ora, ma era molto molto diverso. E delle trasformazioni di questo quartiere e di questa parte di città del quadrante ticinese Navi di Genova, mio padre si è occupato molto e ci torneremo dopo. Prima di tutto, perché abbiamo fatto questo libro? Che cos'è questo libro? Questo libro non è un libro su mio padre, ma un libro di testimonioni, che sono poi scritti. Abbiamo scelto un'occasione del ventennale dalla sua scomparsa, di non fare un'operazione nostalgica, operazioni che non ci sono mai appartenute né come Cox 18, Paolone prima lo presento, Paolone di Cox 18, e come Archivio Primo Moroni, e neanche io come figlia non mi è mai interessato stare sul piano personale o nostalgico o di pura memoria. Ci interessava fare qualcosa che fosse un corpo vivo e che avesse a che fare col presente. Ci interessava poter fare un'operazione che fosse come una cassetta degli attrezzi che potevamo mettere a disposizione di tutte e di tutti, idealmente e possibilmente anche di più giovani. Mi raccontava Roberto, che è venuto a sapere di questo libro da sua figlia, che ha partecipato a una presentazione all'Unex M24. Esattamente questo mi sarebbe piaciuto succedere con il libro. In realtà non nasce neanche come libro, come oggetto di carta. Nel 2018 ci siamo seduti e abbiamo discusso a lungo su come fare questa operazione, e la prima cosa che tra le cose che ci siamo detti era che l'oggetto libro ci sembrava non potesse contenere da solo la capacità di primo, di mio padre, di relazioni, di tessere trame, di non affidarsi soltanto alla parola scritta per fare quello che ha voluto fare in tutta la sua esistenza. E quindi abbiamo scelto di diffondere una selezione diverse dei suoi scritti in rete. cercando delle realtà complici, quelle che per noi potevano essere realtà complici. Tra queste realtà, un sito di, diciamo, di informazione antagonista, una parola un po' demodé, che si chiama Qui e Ora, un altro che si chiama Dinamo Press, nato nella galassia dei centri sociali e dei paleologisti romani, che poi è diventato un po' casualmente l'editore competente in questo libro. Un collettivo che lavora sulla scuola, che si chiama Cattive Maestre, sempre di Roma, qui abbiamo dato del materiale sulla scuola. Ancora recentemente ci ha messo un po' a uscire, ma un contributo che, di cui sono molto contenta, è che due giovani compagne transfemministe di Roma di Meno sono partite da una bellissima intervista di Ida Farè, fatta lo scorso anno. Intervistava mio padre sul femminismo e sul rapporto tra il femminismo e la libreria Calusca negli anni 70, hanno scritto un pezzo su cosa significa essere femministe oggi all'interno del movimento. Quindi l'idea per noi era proprio questa, fare in modo che questi scritti, questi ragionamenti, questi fiori potessero continuare a sbocciare, provando a diffondere alla maniera più anomala possibile i suoi scritti. Ognuna di queste realtà, per cui Dinamo Preschi, ora Cattive Maestre, non ha di meno una piccola parte, dimentico uno speciale fatto con il Manifesto, ovviamente un giornale che mio padre ha scritto più di una volta, abbiamo fatto uno speciale su Alias nel 2018. Quindi l'idea era di arrivare in modi diversi a più persone possibili. Da questo poi, anche a grande richiesta, devo dire, è arrivato questo libro, che è una parte di questa grande selezione fatta in maniera diversa da queste diverse realtà. Questa in particolare è la selezione che abbiamo fatto, che ho curato insieme al collettivo che anima il sito di Dinamo Press. L'idea era non solo dare noi, provare a dare noi ancora degli strumenti con l'assunto più morone, con questo tipo di, ma anche a nostra volta poter far conoscere questa realtà a chi magari conosceva la storia di Primo e della Calusca, ma magari oggi non conosce Dinamo Press, non conosce Qui Ora, non conosce le Cattive Maestre, non è molto difficile che non si conosca per fortuna, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, questo è l'intento di questo libro. In questa selezione, in questo libro, i materiali quindi sono selezionati in base ai fuochi di interesse del sito. Quindi c'è una parte dedicata ai centri sociali occupati e autogestiti e alla loro nascita, c'è un pezzo che io amo moltissimo su come fare storiografia dal punto di vista della sinistra militante, c'è un pezzo profetico che si chiama Post-fordismo nuovo destra sociale, che se avete voglia di prendere questo libro così si legge, dove si tratteggia la nascita della destra così come la conosciamo oggi, anche peggio, e altro. Mio padre, come cominciava a raccontare Roberto, era un operaio, un libertario, ce ne rendiamo conto anche del racconto della fascia nera per Tiananmen. E a proposito di PC, lui milita per un breve periodo nel Partito Comunista Italiano, e di questa esperienza mi piace leggere questa frase. Viene chiesto un'intervista, ha partecipato al movimento studentesco milanese, in relazione agli anni 70, lui risponde in maniera vaga, non organizzata, perché uno che ha fatto 12 anni di Partito Comunista ha una media immunizzazione dell'organismo politico omogeneo ed efficiente. Ci caschi dai 16 ai 28 anni, ma è molto difficile che successivamente ci ricaschi con facilità nell'organizzazione quadrata. La sua scelta quindi racconta che in realtà il suo modo di partecipare alla più grande ondata rivoluzionaria che ha attraversato questo paese è quello di aprire una libreria e di farne, appunto, come diceva Roberto, un luogo non settario, che non significa che chiunque e comunque poteva attraversarla, comunque un luogo che è diventato negli anni un punto di riferimento per tutto quello che si muoveva, appunto, a sinistra del PC. Si muove quindi da cane sciolto e apre questa libreria insieme a mia madre. In Calusca, nel quartiere ticinese, non a caso lo apre nel quartiere ticinese, lo racconta bene quando racconta quando questo quartiere Cicinese, ma anche Porta Agenda è uguale dal punto di vista della composizione di allora. Negli anni 70 il Cicinese diventa il quartiere di raccolta con la più alta concentrazione di sedi della sinistra extraparlamentare, e raccontava in un modo, secondo me, molto interessante, oggi che si parla tanto di modelli di città, no? O di decoro urbano, o di soggetti che hanno più o meno diritto di vivere e attraversare la città. In questa città mi pare si parli di tasso urbano, per esempio, ultimamente, no? E racconta come, secondo lui, il Ticinese fosse naturalmente la sede per, appunto, per tutte queste realtà non omologate, proprio perché prima era stato già accogliente per tutta quella piccola malavita che arriva della mafia, per i ladri, per tutto quel sottoposto, per cui già abituato e accogliente per le differenze, per chi sceglie di attraversare e vivere la città, sceglie o è costretto ad attraversare e vivere la città in maniera diversa. La disponibilità all'ascolto di mio padre, come diceva Roberto, sì, è senz'altro costata tanto, ma è insostituibile. C'è in un pezzo, non mi ricordo se nello statuto dell'archivio o in un'introduzione di uno dei libri fatti dell'archivio, proprio questa definizione: è insostituibile la sua capacità sia di orientarsi nelle stratificazioni della storia, sia di relazione con le persone. Nessuno di noi ha mai pensato di sostituirlo, io men che meno la figlia, ma neanche direi i compagni e le compagne dell'archivio di Cox 18. Quello che proviamo a fare è continuare a stare nel presente con gli strumenti del passato. La libreria Carusca avrà diverse sedi, avrà dunque in corso di Porta Ticinese di Carusca, poi all'inizio di corso di Porta Ticinese, poi in Santo Storgio, subirà il contraccolpo della repressione degli anni 70, centinaia e centinaia e centinaia di frequentatori della Carusca sono stati colpiti dalle misure repressive, dopo i processi del 7 aprile, dagli arresti a chi è scappato dall'Italia, a chi si è suicidato, eccetera, eccetera. E faccio comunque una Carusca sotto il peso riapre però. Grazie alla capacità incredibile di mio padre di saper cogliere quello che succede nella società, anche quando sembra tutto finito. E questo è anche uno dei motivi per cui io per la prima volta ho deciso di mettere mano ai materiali di mio padre, perché ero un po' stanca di sentirmi ripetere intorno a me che appunto è tutto finito e che abbiamo perso. Che il fascismo è alle porte, ero stanca di questo, perché avevo un mio ricordo da poco più che bambina di quale grande tragedia erano l'inizio degli anni 80 in questa città, in Italia, in generale, e questo senso profondissimo di sconfitta, questo fine dei grandissimi cortei ultrapartecipati o delle grandissime assemblee ultrapartecipate. Mi ricordo il silenzio, mi ricordo il trauma che ho vissuto ovviamente in prima persona della grande emozione dei politici di tanti anni. Mi ricordo questo, ma mi ricordo anche che in Carusca cominciano ad arrivare i primi punk. Lo ricordo da ragazzina, mi innamoro perdutamente di queste figure mitologiche che attraversavano la libreria. Mio padre veniva criticato dai vecchi militanti degli anni 70, alcuni dicevano: ma con chi ti metti, con questa qua, sono dei nichilisti, eccetera, eccetera. Ma lui invece comincia con loro una relazione, addirittura offrendogli una stanza da autogestire all'interno della libreria. Comincia una relazione che a me piace definire una lunghissima storia d'amore, Marina dovrebbe confermare, e anche Rosy, e che porta poi a un rapporto meraviglioso che porta per esempio anche alla fondazione della casa editrice Shake, alla nascita della rivista Decoder, ad Agenzia X, alla portare alla letteratura cyberpunk in Italia e a tante altre cose. E questo rapporto poi naturalmente porta mio padre in relazione con i primi centri sociali occupati e autogestiti di Milano. e a riaprire finalmente la Calusca proprio in un centro sociale che è COP 18, e c'è una perfetta definizione del perché. Nel 1992 Primo riapre la libreria Calusca all'interno del centro sociale COP 18, via Conchetta 18 a Milano. A riprova della sua disponibilità a confrontarsi con culture e controculture anche generazionalmente distanti dalla sua, di questa scelta disse: ho pensato che riaprire la libreria in un luogo giuridicamente insicuro, con un centro sociale occupato e autogestito, fosse una risposta simbolica e suggestiva al razzismo politico e amministrativo del comune nei confronti di questi luoghi. I centri sociali sono mal visti, allora io mi metto in quei luoghi, spendo la mia persona e il mio progetto proprio in questi luoghi, e mentre faccio questo creo o voglio creare un luogo di produzione e di ricerca culturale. E c'è un'altra bella definizione che in questa nostra ricerca per fare questo libro, in realtà stavamo per fare anche un documentario, poi dopo ci siamo un po' persi, però abbiamo visionato la qualità di tutto il video, e in una di questi c'è un'altra bellissima definizione di che cosa fossero i centri sociali, che secondo me possono ancora essere in forme magari diverse, non so. E cioè la continua e disperata ricerca di forme di relazione sottratte al meccanismo esterno. E questa cosa delle forme di relazione è l'altro punto per cui io ci torno a fare questo video. Penso che mai come oggi abbiamo bisogno di tornare a sperimentare forme di relazione sottratte al meccanismo produttivo, ora che tutto viene messo a valore, le città per femmine. E per ora mi fermo. Passo la parola a Tommaso. Allora, geografia della rivolta. Dovremmo dire un libro sul divenire. Alcune cose Maisa le ha dette, mi ha fatto riferimento, alcune magari collego, dico due cose anch'io sul libro, e poi lascerei chiudere questa prima carrellata a Paolo, che ha direttamente vissuto la storia di Prima all'interno del, per Prima, diciamo direttamente, poi ci siamo passati tutti, però l'arrivo e la permanenza di Prima all'interno del centro sociale, che è una vicenda di cui si racconta poco, e ciò non è giusto, è un errore. Allora, Primo è stato senz'altro curioso, generoso, e io vorrei aggiungere è stato lungimirante per diversi motivi. Il primo che mi viene in mente è che nel corso della sua vita, attraverso tutte le attività, le sedi, la libreria dopo, il CIOC prima, la libreria con le varie sedi di cui Maisa ha fatto menzione in precedenza, ha messo via le cose che gli sembrava potessero essere importanti. Arriviamo così che quando muore lascia un fondo cospicuo di materiali che partono dall'inizio degli anni 70, forse anche un po' prima, ed arrivano praticamente alla fine quasi degli anni 90. Questa mole di materiali viene a costituire oggi la parte centrale del fondo dell'archivio Primo Morone, il pezzo grosso. Dico pezzo grosso perché nel corso del tempo l'archivio, i materiali si sono arricchiti di altri contributi, Carlo Cuomo, mio padre Sergio Sbazzali, Roberto Volponi, insomma diversi contributi successivamente hanno, però la parte ultimamente la Serena Boeri e Antonio Poletto, non so se la Serena ci ha lasciato l'anno scorso, direi, e abbiamo un grosso fondo che verrà presentato tra poco. Comunque questo quantità di materiali costituisce la base dell'archivio, che a partire dal 2002, dopo due anni di lunghe e molto affollate riunioni tra i compagni di Primo, il centro sociale, amici e parenti, senza che uno non avesse ruolo, tutti i ruoli, potesse avere tutti i ruoli contemporaneamente, nel 2002 viene, come dire, parte, diciamo, all'inizio, no? Da lì iniziamo un lungo lavoro di schedatura e di riorganizzazione che non solo non è finito, ma diciamo di cui possiamo dire siamo circa a metà, quindi come capite ancora la strada per noi è lunga. Quindi abbiamo bisogno di un divenire. Questi materiali sono accessibili, non vengono prestati fuori, però è possibile consultarli, sono almeno il 50% è schedato, si tratta circa di 10.000 volumi di monografie e un migliaio di testate di riviste. Considerate il fatto che il periodo che va dagli anni 70, 73 al 78 è un anno in cui nascono una quantità incredibile di riviste, quindi lì c'è una testimonianza della produzione enorme di pensiero, riflessione, comunicazione, voglia di scambiarsi, di dire e di ricevere, insomma, in qualche modo. Bene? Di cui primo è stato testimone e in parte artefice, va detto, in due funzioni, nel senso che in parte alcune di queste riviste ha contribuito alla discussione, all'elaborazione, alla produzione, eccetera, e poi ha svolto non solo il fondamentale ruolo di punto di raccolta in Milano, ma ha dato vita ad una rete di punti, insieme ad altri naturalmente, ma ha contribuito in maniera determinante a dare vita a una serie di punti dentro, che si chiamò allora i punti rossi, che contava più di 50 tra librerie, centri di documentazione, eccetera, sparsi sul territorio nazionale, che permettevano la circolazione di queste riviste o di questi libri, che erano in gran parte completamente al di fuori dei circuiti ordinari della libreria. Quindi, diciamo, in questo senso il contributo di Primo è stato molto grosso, anche proprio nella lavorazione, nella genesi e nella circolazione dei materiali che poi in qualche modo noi abbiamo oggi a disposizione. Di questi materiali, quelli scritti suoi hanno una lavorazione a parte, sono in gran parte accessibili sul sito dell'archivio e quindi, diciamo, è poi possibile a tutti andare a consultare, a vedere anche delle altre cose che se qualcuno fosse interessato, diciamo, farsi un quadro più completo di quanto già non ci sia in questo testo qua. In questo testo qua però ci sono delle cose importanti, quindi faccio un piccolo excursus sul libro e poi lascio la parola, non vorrei tediare più di tanto. Allora, il libro inizia con un pezzo, una biografia di Primo dalla nascita agli anni 71, fatta da Cesare Bermani, è un pezzo molto noto, è uscito su Primo Maggio per la prima volta, è riuscito sull'ultimo numero di Primo Maggio che la Micaletti ha fatto uscire nel 2018 ed è stato poi pubblicato come un piccolo volumetto dalla Calusca diversi anni fa. È molto importante e molto bello, si capiscono molte cose, non solo di Primo come uomo, ma di quello che è stato il clima di quegli anni e di quello che possono essere stati gli elementi che hanno contribuito a formare la sua persona, diciamo in qualche modo, che sono caratteristici e tipici diciamo di quella possibile, diciamo, solo nella configurazione di quello che accadeva in quegli anni là. Primo fu, ricordavi giustamente, ha fatto 12 anni di PC e se ne è staccato in una maniera netta, senza, diciamo, mai avere alcun tipo di recriminazione. Però quei 12 anni gli hanno fatto una scuola di partito fortissima, da cui lui ha imparato a prendere le distanze, ma di cui ha sempre avuto una compagno di viaggio. Lui ha studiato da piccolo, oltre ad aver studiato nelle balene, oltre ad aver studiato nelle strade con i suoi amici con cui andava in giro, perché lo leggerete, inutile che ve lo racconto io, è una storia molto avventurosa, la storia della sua vita. Però poi quando andava in sezione, la sezione con gli operai, col quadro di Stalin appeso alle pareti, e quella sezione là, leggevano e studiavano i materiali, come si può dire, della piazza internazionale, diciamo, per dare Allora lui questa cosa ce l'ha, nella sua cassetta degli attrezzi ce l'ha, no? Non pago, però si stacca perché capisce che questa cosa non va più. Capirete anche bene perché, perché non è tanto lui che si stacca, in parte è lui che si stacca, ma in parte è il partito che si stacca. Cioè lì c'è come proprio si produce una specie di scissione, no? No, perché cambia, proprio avviene il momento in cui cambia, lo stacco grosso avviene il momento in cui cambia l'anima anche di quel partito là, da cui probabilmente si sarebbe staccato lo stesso, però diciamo la cosa è duplice, sono due lati, e passa a la Casa della Cultura e per esempio l'Istituto del Martino. L'Istituto Ernesto De Martino è un istituto di storici, conoscerete tutti, che danno vita alla scuola italiana della storia orale. Praticamente il presupposto sarebbe che è laddove la storia si forma che vanno raccolte le tracce di quello che succede, di quello che è successo. E quindi fanno le famose interviste, ci sono ancora delle sale piene di nastri che purtroppo stanno andando a studiare a Ramengo, a De Martino, con tutto il materiale di interviste, il materiale audio che è stato conservato da allora. Lì, primo, affina, non voglio dire impara, perché poi diciamo ognuno, non voglio costruire degli ordini gerarchici negli eventi, questa sua idea che le cose si imparano e si fanno. Si imparano mentre si fanno, che non c'è la lezione da fare o la lezione da imparare, ma che è chi è il protagonista dell'evento che è quello che meglio lo può storicizzare. E siccome lui è molto protagonista di molti eventi, volente o nolente, e anche in questo gli anni lo permettono, diciamo, sono una cosa che 20 anni dopo non sarebbe stato possibile fare allo stesso modo, allora lui storicizza questo, no? Storicizza anche questo che vede. Da là incomincia a fare questo lavoro di narrazione, per esempio, dei territori, che è formidabile e che c'è qua. Allora abbiamo detto prima questo primo c'è il pezzo sulla nascita della libreria. Molto bello, lui e Sabina, tutti e due, spiegano perché nasce questa libreria, perché uno decide, perché c'è anche là c'è un motivo preciso, che lui, diciamo, un impegno, non è che uno dice vabbè, muovo le palle, mettersi al servizio dei movimenti, erano gli anni, era finito il 69, eravamo al 60, 71, 71, e quindi è una posizione di è una scelta di impegno questa dell'apertura della libreria. È un'attenzione enorme per la questione educativa. Esatto. Nasce così, nasce come punto di raccolta per gli insegnanti. Ragione perfetto, che fanno anche lì la didattica alternativa, scelgono i materiali che non sono quelli previsti, proposti per le scuole, scrivono i libri da soli, era famoso per fare le bibliografie, per cui andavano le scuole a chiedere quello che su questo argomento e lui faceva questo. Questi lavori qua. Ecco, praticamente costruisce, di quello che volevo dire, che inizia a costruire le mappe del territorio, no? È famoso primo per questo, da cui questo attributo, come si può dire, un po' scherzoso e un po' no, per me molto no, di antropologo urbano. Cioè lui, non so se può, come si dice esattamente, finisce antropologo, ma la sua attività di descrizione dei mutamenti della città è incredibile, e questa la trovate anche quella in un pezzo che c'è qua dentro, da cui c'è questa cosa che lei diceva del ticinese, no? Dell'evoluzione del ticinese, ed ogni descrizione accomuna il lavoro sulla la diacronismo temporale, cioè lo sviluppo degli eventi, le soggettività, le relazioni tra le soggettività, il modello produttivo circostante che c'è o che muta anche esso. Quindi vedete che è una cassetta degli attrezzi impressionante dal punto di vista degli argomenti e delle cose che mette insieme. Vi faccio un esempio solo piccolo, molto breve, che è tratto dall'introduzione è un esempio che non c'entra tanto con questo, perché è tratto dall'introduzione dell'Orda d'Oro, che è un libro molto importante che prima ha scritto con Balestrini, che racconta praticamente la storia dei movimenti dal 68 al 77. È un libro bellissimo e non ha pari, secondo me. Comunque lui dice nell'introduzione come hanno fatto. Allora, abbiamo riempito una stanza di decine di libri, oramai fuori commercio, prodotti negli anni 70, di centinaia di riviste e documenti provenienti dall'archivio storico della Libreria Carusca o dalle biblioteche personali dei compagni. Abbiamo parlato per mattinate intere con i compagni che poi avrebbero dato contributi significativi al testo definitivo. Per un mese non abbiamo scritto una riga, ma lentamente siamo riusciti a nucleare alcune linee forti all'interno delle quali far viaggiare la narrazione e selezionare l'enorme massa di materiali a carattere documentario. Questo è, diciamo, nel caso dell'Orda d'Oro è un libro, come si può dire, a più mani, anche se poi Balestrini e Moroni si prendono da, sono poi di quelli che questi pezzi sono suoi, però il modello di procedere è quello, passo attraverso i testimoni, questo lo rimando io, e in parte testimone lo sono anche io. Noi adesso stiamo curando un testo, che ogni volta lo dico perché è una lavorazione lenta, come la schedatura sull'eroina, sulle droghe, non sull'eroina, e naturalmente anche là c'è il continuo contatto con la gente, le parole, eccetera, non è una roba, come dire, quella scienza astratta che viene da fuori. Poi farà dei lavori, questo lo dico parallelamente avviene alla questione alla Libreria Carusca col consorzio Aster, in cui faranno delle ricerche sociologiche e che lo porteranno anche lì di nuovo nei posti, nei quartieri, nelle fabbriche, attraversando tutto, quindi ricco di questi materiali. Arriviamo all'80, e l'80 è il pezzo che diceva lei, che è questo sulla il post-fordismo e la Lega, sostanzialmente le origini, inizia con la genesi della Lega. È molto attuale. Naturalmente a noi manca un primo di dopo, perché le cose poi sono andate avanti, cioè i presupposti che c'erano allora, il pezzo è del 90, parla dell'80, però i presupposti che c'erano nel 90 oggi c'hanno 20 anni, molte cose sono 30 anni, e quindi diciamo non è andremo, facciamo 10, dai. Ecco, quindi per dire che c'è un metodo che è importante, oltre al contenuto, c'è un metodo che questo è, diciamo, una speranza che anche questo sia un divenire, cioè che sia un metodo che possa essere raccolto, naturalmente reinterpretato, utilizzato e fatto proprio, come dire, da chi vuole e può, per far sì che queste rivolte qua descritte siano una delle rivolte di domani, diciamo, di un domani non lontano. Finisco, vi voglio finire dicendo alcune cose che Primo mi ha insegnato e che io non sono sicuro di avere imparato a saper fare, però che me ne sono... La prima è questa qua. Fare due passi indietro per fare molti passi avanti. Vabbè, la citazione è un classico, anche questa viene un pochino prima, però è notevolissimo come ogni volta che lui interviene su un pezzo parte da prima, cioè inizia lì, poi scarta il ragionamento, va indietro di 10 anni, delle volte anche di 200 anni, e riprende e arriva lì dove era, da dove voleva partire, con una costruzione attorno che è formidabile, e capisci che cosa sta succedendo, no? Quindi, per esempio, di nuovo questa cosa sulle droghe che stiamo facendo adesso, nasce da una domanda fatta da un gruppo di amici, penso suoi, negli anni 90, e gli avevano chiesto che cos'era la legge... Non erano più droghe, erano teori. Sulla legge russo Craxi Vassalli Russo Iervolino, che è degli anni 90. Una domanda che, diciamo, potrebbe avere una risposta di 15-20 minuti, cambia la normativa, si rigidisce, punto e basta, diventa un'ora e mezzo di discussione, c'è la gente del capitalismo dentro, cioè, è una cosa formidabile. Adesso noi lo metteremo a stampa, ma vorrei, lo metteremo anche fuori, vi invito, una volta che avete tempo tutto, di ascoltare il flusso delle parole, perché prima era un buon ascoltatore, ma parlava di bestia, era un affabulatore di quelli che se lo decagli nel giorno sbagliato non andare via più, ma ha detto anche quello. Seconda cosa, non essere settari. Non essere settari vuole dire, era come lo dicevi, esattamente come lo dicevi tu prima, cioè vuole dire non porre dei paletti invalicanti, che non vuol dire non avere una direzione precisa, perché questo a lui non è mai mancato. Quindi vuole dire sapere dire di no quando è il momento, no? Sapersi, come dire, prescrivere la propria scelta, ma poi non impaludarsi in una roba mio, tuo, suo, il giardino dell'uno o quello dell'altro. Non essere settoriali nella conoscenza, anche lì è notevole, antropologo, però tu vedi che c'è, parla di tutto, no? È molto curioso come mette insieme argomenti e strumenti teorici in maniera eretica, cioè vengono fatte delle, dal punto di vista di, come dire, scientifico probabilmente non è, però è molto importante. Anche lì, se vogliamo, non c'è una settorialità del sapere, si può vedere come la stessa cosa. Studiare, ricercare, essere curiosi, vedi, l'avevo scritto anch'io. Questo qua, non l'ho detto subito perché mi piaceva dirlo ora, è perché primo è stato un pessimo studente scolastico, è stato cacciato da scuola alla prima professionale, perché non era in grado di reggere il rapporto con l'istituzione scolastica alla prima classe della professionale. Tutto quello che ha fatto se l'è fatto da sé, cioè anche nelle sezioni, naturalmente, non è quello di dire, ha scelto però, cioè lui ha fatto le cose da cui poteva tirarsi indietro quando voleva, avrebbe potuto, non lo ha fatto ed è arrivato a questo, perché? E poi ha lavorato con i bambini, non nel senso con i bambini, ma con gli insegnanti che lavoravano con l'apprendimento della conoscenza, cioè era un uomo affezionatissimo alla conoscenza e alla sua trasmissione, ma non in grado di sopportare l'istituzione delegata al mondo. Questo va messo, secondo me, è una cosa sua molto, molto preziosa. L'ultima, la frase famosa, è condividere saperi senza fondare poteri, va bene? Questa è una frase che è stata molto citata di primo e che però io leggerei in questa accezione qua, che tanto ognuno poi si può dare la sua, che lui, pur essendo un uomo molto autorevole, non è mai stato un capo, non ha mai avuto poteva essere di riferimento in qualche modo, ma non ha mai avuto un gruppo, una cosa che dici, no? Quindi lui il suo sapere l'ha condiviso e non ha mai creato un potere, che avrebbe potuto in quei tempi, perché in quei tempi c'era moltissimo questa roba, ora non era tutto così facile. Cioè la tendenza, appunto, questi settori che attraversavano la libreria Calusca e non si attraversavano tra di loro altrimenti, avevano dei suoi capi, era una cultura così, questo lui non ha mai voluto fare. Basta, io queste robe le ho imparate, non so se le so fare mai. Adesso. Questa una presentazione di questo tipo è un esempio di com'è un po' lascialo lì perché la spiegia vuol dire che funziona. Questa cosa di essere testimoni di qualcosa mentre la si vive, la si apprende, la si trasmette, è esattamente come noi abbiamo imparato a fare questa presentazione, no, perché è nata esattamente così. Io non ho esattamente un pezzo preciso da fare in questa presentazione, ne abbiamo fatte diverse, in ambiti e in ambienti differenti, e la cosa che ci interessa molto è anche l'interazione, la cosa che ci interessa è poter aprire queste scatole e metterle a disposizione proprio coerenti con il libro, con la figura di Primo, e la libreria, poi in una libreria che conoscevo solo di passaggio, eccetera, però conosco il compagno che l'ha aperta, eccetera, e gli altri. In realtà la cosa che mi spetta è questa. Noi in questi anni, in questi 20 anni dopo la morte di Primo, cioè al momento in cui si decide di pubblicare qualcosa di nostro per celebrare, ricordare, onorare Primo Moroni, fare anche un video, un film su questo, partiamo con una cosa leggera, facciamo un film su Primo e tutti quanti per pudore diciamo, io un libro su Primo e un film su Primo pianino, c'è qualcuno qua presente che sorride, che ha partecipato a quelle riunioni e tutti hanno detto un momento, cominciamo a parlare della nostra esperienza. E quindi io faccio una cosa in queste presentazioni che non avevo mai fatto prima, cioè noi di Cox 18, io sono dei fondatori di Cox 18 insieme ad altri che ora non gravitano più, fanno altre cose, altri sono chissà dove, proseguiamo quell'esperienza del centro sociale occupato e autogestito, famoso, credo noto ai più, soprattutto chi circonda l'underground milanese, non soltanto. Noi quando abbiamo deciso, il collettivo di allora, di ospitare la libreria Calusca, non abbiamo fatto ragionamenti come questi. Noi avevamo una relazione in atto che partiva dalla strada, che partiva dalla sede di corso di Porta Ticinese, credo 48, dove altri hanno impiantato quella stanzina con le riviste, con eccetera eccetera, con le fanzine più che con le riviste. Questa cosa si sviluppa nel tempo, la città in quel tempo sta cambiando, e come, sta cambiando tanto, sta cambiando parecchio, e noi non apparteniamo a quella generazione che dice è finito un percorso, è finita una storia, oppure c'è una sconfitta in atto. Io non ho quell'età, non ho quel tempo, io non vengo da quella cosa, io vengo dal desiderio mio e collettivo di strada, più vicino alle culture, alle controculture underground, chiamiamole, certamente una forte connotazione punk e poi cyberpunk eccetera, di avere voglia di realizzare delle cose, di avere voglia di inseguire i propri desideri, i propri sogni, di non accettare una serie di condizioni che questa città stava mettendo in atto e ora è assolutamente in atto, anzi è diventato un laboratorio che esporta soprattutto nelle sue parti peggiori questo aspetto di controllo e non solo. E noi abbiamo ancora tante cose da voler sperimentare, da dire, da fare. Primo si aggancia in questo momento, in quel periodo, ed è una figura che per noi non è il compagno che ha tutto questo vissuto, questo trascorso ben descritto, è qualcuno che ha voglia di condividere insieme a noi quel percorso, e lui si mette in gioco parecchio. Vi assicuro, qui ci sono molti volti che sanno, perché c'erano, che non era facile quel tempo, nemmeno stare nei luoghi dell'autogestione di quel tempo. Erano luoghi, sono stati luoghi anche un po' duretti, c'erano anche tante differenze, e poi tra l'altro noi Cox 18 l'abbiamo occupato con uno tra i tanti messaggi precisi. Noi abbiamo dipinto fuori da una saracinesca, perché una volta erano negozi, c'erano tre piani di appartamenti, eccetera eccetera, c'era no eroina. Quindi quando parliamo di droghe, parliamo di sostanze, parliamo di abusi di sostanze, in quella zona o ti facevi oppure non so che altro. Noi facciamo una scelta precisa, c'è un bellissimo manifesto che deriva dalla prima esperienza di Cox 18, che dice, mi piace citarlo anche per ricordare le persone che hanno partecipato a quella cosa e hanno anche inventato quella cosa, una siringa con un feto dentro che dice decidi cosa vuoi fare, o ti fai l'eroina, butti il tuo cervello come escrementi, decidi cosa vuoi fare, se vuoi fare questo o vuoi fare dell'altro. Adesso molto rapidamente, noi decidiamo di fare dell'altro. Ci tengo a dire che al primo sgombero di Cox 18 noi sganciamo, tagliamo la saracinesca con questo disegno, e lo portiamo a mano in galleria Vittorio Emanuele, dove c'era l'ufficio gestito da quel povero sfigato di Fabio Treves, poveretto. E così all'ufficio giovani noi entriamo nell'ufficio e gli buttiamo dentro la saracinesca. Come dire, Comune di Milano, autorizzi questo sgombero, perché il Comune è il proprietario dello stabile, autorizzi questo sgombero, quindi stai dicendo che questo messaggio ti va bene, ok? E altro. E poi dopo succedono tante varie cose. Primo allora non era ancora con noi, non era ancora con nel centro. No, era in Piazza Sant'Eustorgio. In Piazza Sant'Eustorgio è un momento, tra l'altro, di grande comunicazione. Non c'è ancora il centro sociale di Via Conchetta, c'è solo il centro sociale anarchico di Via Conchetta 18, che è una piccola porzione di quel civico, che è la base su cui poi nasce, dopo nasce poi il Corpo 18, legato al sindacato all'Usi degli ospedalieri, eccetera, eccetera. Ancora c'è una forte rappresentanza di questo, c'è un ufficio in Via Torricelli di questa stessa, di questo stesso sindacato. Insomma, le cose sono veramente tante. Primo arriva a un certo punto, dice noi di fare la libreria lì, ne facciamo una prima versione, poi un'altra viene ampliata. Va detto che ci sono moltissimi materiali video su questo, che in altre occasioni noi in una piccola riduzione, perché sono ore e ore e ore, decine di ore di materiale, alcuni anche deliranti e tra l'altro anche molto divertenti, eccetera. Noi altre volte proiettiamo questo film, ci schiantiamo subito tutti quanti, guarda che la realtà era quella, tosta, eccetera. Quindi abbiamo deciso di non farlo, facciamo così, non so, abbiamo deciso di non farlo, eccetera. E così via. Però, insomma, questi materiali ci sono e molto spesso li proiettiamo. Però noi cosa abbiamo fatto? Faccio un balzo gigantesco. Facciamo un balzo enorme, ragazzi, parla 7 ore. Cosa abbiamo fatto dal 98 in avanti, quando Primo muore? Noi ci siamo occupati di un aspetto, abbiamo pensato di preservare quello che lui ha lasciato lì e ci siamo tenuti dentro un forte legame, una forte amicizia, un forte rapporto tra compagni e compagne, un forte rapporto militante, ma anche un forte rapporto umano, e noi decidiamo di proteggere questo materiale, e per questo ora è possibile parlare di archivio Primo Maroni così com'è e di poter fare pubblicazioni in questo tipo. Però una cosa che io tengo a dire, le cose sono due. Una, che noi non abbiamo mai parlato del Corpo 18 e della relazione con Primo. Si è venuto ogni anno, alla fine di marzo, alle iniziative che noi abbiamo prodotto per onorare, ricordare, ma senza riducismo o altro, Primo Maroni e l'esperienza insieme. Non abbiamo mai fatto interventi, non abbiamo fatto altro che pubblicare materiali, non abbiamo fatto altro che organizzare eventi tali per cui altri potessero richiamare la storia e comunque aprire sempre dibattiti, relazioni, eccetera. Non l'abbiamo mai fatto per pudore, perché è un tema importante, perché anche Maisa, posso dire, a un certo punto prende in mano questa cosa di questi materiali, perché scatta qualcosa. E poi perché sostanzialmente Primo, e questo prova quello che è stato ben spiegato e descritto da Tommaso e Maisa, Primo faceva parte del collettivo di Corpo 18. Primo non era un elemento esterno al centro. Primo veniva alle riunioni del martedì sera, che si svolgono ancora adesso intorno alle 11, alle 23, quindi un orario per persone che si alzano presto. Okay. Il fatto che ormai ci si alza presto quasi tutti, però il community continua a essere lì, con l'orario, non è facile, insomma, 30 anni di riunioni, eccetera. Sempre. Primo viene alle riunioni, partecipa al collettivo, fa le proposte che vuole fare, le discute con noi. Corpo 18 ha sempre funzionato, anche se può sembrare un po' grossa, ha sempre funzionato l'unanimità. È un ambito libertario, non c'è la maggioranza, non siamo democratici, non c'è il voto. Okay? Si funziona se qualcuno propone qualcosa e altri, tutti gli altri e le altre sono d'accordo su questo, si fa. Primo si è non faticosamente arrivato a questo, perché Primo agiva così, è stato facile, è stato semplice. Non è stato facile gestire due entità così distanti, apparentemente, perché quando Primo ha cominciato a portare in Conchetta, in Corpo 18, delle iniziative, molti di noi le guardavano con un certo sospetto. Tant'è vero che c'erano molto spesso situazioni tali, in fondo al cortile c'era un palco di 70 centimetri, molto spesso parte del collettivo, durante le cose organizzate in libreria, se ne stavano a braccia conserte a guardare questi che arrivavano alla libreria senza essere tanto individui, come dire, alternativi, poco raccomandabili, molto raccomandabili forse, però cerchiamo di capire che cos'è questo linguaggio, che cos'è. In realtà in Conchetta nasce la LUMI, nasce la Libera Università dell'Interland di Milano, nascono tante cose, nascono momenti veramente importanti, vengono ospitate persone di calibro internazionale importantissime, non sto a citarle, ma ce ne sono decine, poi tra l'altro è tutto pubblicato, è tutto visibile ovunque, eccetera. Per cui la cosa straordinaria è stata che prima è stato uno di noi, non è stato un'entità che ha cercato un leaderismo all'interno di questa realtà, e ha comunicato insieme a noi alla pari, e solo così avremmo potuto avere una relazione con Primo. E Primo ha dimostrato la grande intelligenza, perché non era un'intelligenza occasionale o opportunistica, era un'intelligenza reale. Ho tutti gli elementi personali, umani, politici per affermare questo davanti a chiunque e comunque, e penso che questo sia condivisibile da chi continua a questa cosa e anche da chi magari frequenta meno o non più, ma ha vissuto questa esperienza, e penso che sia proprio questa. La cosa straordinaria è stata questa. Poi mi piace raccontare anche una piccola cosa, forse più sconosciuta, che in realtà noi nel 1989 subiamo lo sgombero nel gennaio, e in quello sgombero nel gennaio del 89, dove c'erano quegli appartamenti, c'era qualcuno che ci abitava, eccetera eccetera, nei mesi seguenti veniamo ospitati in quello che ancora è uno spazio sociale del comune in via Scaldasole, quindi a due passi da Vicolo Calusca, eccetera, lì in quel perimetro di case del comune, eccetera. E poi però, visto che eravamo tantino irrequieti, era un po' difficile continuare questa relazione con uno spazio che non aveva ancora scelto se essere totalmente autogestito, piuttosto che poi diventare quello che è ora, frequentato da persone del quartiere, va benissimo, eccetera, eccetera. Andiamo a prendere un posto in Porta Genova, a due passi, andiamo a prendere un vecchio casello che sta tra la strada di via Valenza, quella che costeggia l'ex la ferrovia, e l'entrata ora della metropolitana, per il passeggio così, eccetera, eccetera. Noi, avendo così delle esigenze più nottambule, eccetera, allora prendiamo questo posto, che viene chiamato acquario, come ricorda, perché c'erano delle vetrate, vengono dipinte, con dei pesci così, e dentro c'erano delle creature simili a che non si capisce, che facevano attività. È un anno molto importante a Milano. Milano nel 16 agosto dell'89 viene sgomberato il centro sociale Leoncavallo, che è alla stessa età di momenti molto importanti della città. Stiamo parlando del 1975 e 76, con l'occupazione del centro sociale Leoncavallo, della casa occupata di via Correggio, a cui siamo strettamente legati come origine, come non sono stati altri luoghi della città, come la casa occupata di via della Pergola o eccetera. In quegli anni stanno nascendo delle realtà importanti, e quindi devo fare un altro balzone, diciamo così. Dopo quello sgombero, come dire, la città non era esattamente la stessa, il conflitto era bella alta, e stiamo parlando di un tempo in cui negli sgomberi, per esempio in quella zona di Leoncavallo, quando non era quello che è stato dopo, quello che è diventato ora, c'era tutta la città coinvolta, c'erano state le strade ferme per una settimana. C'è una settimana di strada bloccata, e c'è chi c'era, si ricorda, state una realtà veramente completamente diversa. Poi c'è lo sgombero di via Conchetta, nelle scuole accadono delle autogestioni a sostegno di questa cosa dei centri sociali, il pezzo sui centri sociali e la loro genesi deve per forza, anche in questo caso, andare indietro di due passi e poi riagganciarsi e ripartire. Ma di fatto che noi occupiamo questo casello in Porta Genova e facciamo le nostre attività. Quando rientriamo in Conchetta, nel settembre, fine settembre-ottobre dello stesso anno, decidiamo ovviamente di stare in via Conchetta 18 e abbiamo quello spazio da utilizzare, ma non ci andiamo più di fatto, perché è stata una battaglia rientrare. Rientriamo, ci sgomberano, botte della Madonna, rientriamo, decidiamo, adesso decidiamo noi come si fanno le botte, non vengono più i cattivoni, cazzi loro, meglio per noi, eccetera, rimaniamo lì, poi c'è un altro sgombero, siamo ancora in questo posto. Nel frattempo decidiamo cosa si fa qui. E intanto si parlava con Primo della libreria e si decise di dare la libreria Calusca, la libreria di Calusca, quella sede in Porta Genova, che era un luogo comunque comodo, con tanto transito, aveva proprio tutte le caratteristiche per ospitare uno spazio di diffusione, di materiale, di collegamenti. Tutti quanti noi siamo andati a prendere lezioni pratiche nella Berlino di quel tempo, nella Barcellona di quel tempo, dove c'erano gli infoshop e chissà, si ricorda, quindi dei luoghi molto legati al movimento. Purtroppo succede invece che improvvisamente questa sede prende fuoco, chi se lo ricorda, poi è stata murata come è ancora adesso, prende fuoco e le testimonianze parlano di strani individui con bombe e capelli rasati che escono e danno fuoco a questo posto. Per cui a quel punto che dobbiamo fare? Dove lo mettiamo questo ragazzo? Dove lo mettiamo questo ragazzo? E quindi apriamo la prima sede della libreria, che era molto piccola, erano solo due stanze dove adesso è l'archivio delle riviste. E poi anche la forza e il coraggio di ristrutturare il centro completamente per allargare lo spazio e creare quello spazio superiore con una scala che non c'era, quindi creare lo spazio vero e proprio per l'archivio e la saletta dell'archivio, che organizza contemporaneamente le iniziative giù nel salone, nella sala più grande del centro, presentazioni di libri o altro. Per cui lo spazio diventa, anche dal punto di vista dell'architettura, non solo dell'antropologia urbana, diventa un luogo veramente di sperimentazione, in un luogo dove molto piccolo, ci tengo a dire che è l'ultimo cortile disponibile del Ticinese, perché i cortili del Ticinese sono privati, non si va nel cortile del Ticinese a meno che non ti sei svenato a comprare un appartamento, se puoi, o stai facendoti rapinare con un affitto. Quindi l'ultimo cortile del Ticinese disponibile rimane quello. Noi ci teniamo a questa cosa perché quando abbiamo perduto l'ultimo grado di Cassazione con il comune per la restituzione del centro, che invece per fortuna è ancora nostro, ci stiamo ancora, li siamo e li resteremo, noi diciamo tra le varie discussioni, le varie cose che avremmo mai potuto dire, una trattativa mai avvenuta, mai cercata, eccetera, nonostante le cose che siano state dette in giro, noi una delle cose a cui teniamo è che quello spazio continui a essere per l'eternità un luogo sociale, uno spazio che ospiti realtà sociali, non realtà di produzione di reddito piuttosto che produzione di affari, di business, ma semplicemente un luogo veramente della comunicazione, e questo è uno dei compiti che ci siamo dati e che continuiamo a mantenere. Primo, in questo tema è stato perfettamente a suo agio, noi abbiamo continuato questa cosa con Primo ed era proprio uno di noi del collettivo, non mi viene altro da dire che non questo, e poi spazio a altro. Una cosa, se sono arrivata nel corso della sezione, ho detto una cosa fondamentale. In parte, cioè, Tommaso vi ha spiegato bene che cos'è l'archivio Primo Moroni, i materiali che mi ha scritto, le riviste, i volantini, le fanzine che mio padre ha raccolto e messo da parte nell'arco di tutta la sua vita, costituendo un gigantesco archivio personale. È stato naturale, forse sarà chiaro adesso dopo il racconto di Paolone e di Paolo e di Tommaso, è stato naturale per noi familiari lasciare i materiali di mio padre in Coppiciotto. Coppiciotto si è presa cura e ha protetto l'archivio Primo Moroni, e l'archivio Primo Moroni protegge il